Tell me which exit shall I choose? I'm just cruising all confused. Well, I threw my belongings into the trunk, polished off a fifth, but I didn't get drunk. Got in my convertible, started to cruise. Pennsylvania Turnpike Blues. La tappa è la numero 64, questo significa che ne mancano solo 6, questo significa che sabato arriverà a New York, questo significa che sabato avrà corso per oltre 5.000 chilometri. Alex Bellini è qua con noi in collegamento dalla Pennsylvania, ciao Alex. Ciao Federico, eccoci. Hai già fatto le valigie? No, ma che quelle si fanno sempre all'ultimo momento. Volevo dire una cosa, anch'io voglio quella macchina lì che va a 400 all'ora, eh? Ma mica che io debba andare avanti a 5 o 7 km orari, ma voglio anch'io un po' più decisa la traversata. Tra l'altro credo che ultimamente di macchine ne stai vedendo molte, vero? Perché ti stai avvicinando alle grandi città e il traffico aumenta. Sì, è vero, vediamo adesso, ormai sono diventate proprio questione di ogni giorno, grossi, insomma tante macchine, benché ogni tanto, come in questo momento, adesso avete sentito appena l'ultimo un'altra macchina, però ci siamo addentrati, adesso oggi stiamo percorrendo una striscia di terra sul confine tra la Pennsylvania e il Maryland, ed è molto bello perché praticamente le strade sono vuote, c'è molta gente che se ne va in campeggio, che se ne va a fare i barbecue anche nel bosco, quindi oggi, per dirvi, sembra un po' quelle colline toscane con vegetazione, insomma molto molto carino e molto molto bello. Siamo così fuori dai centri urbani che abbiamo iniziato a fare anche le prime conoscenze con la popolazione Amish, che immagino tu certo conosca un pochettino, no? Sono queste figure un po' sfuggenti che però danno un tocco di antico a questa terra che invece ormai è pervasa dalla modernità. Insomma, quindi le contaminazioni e le contraddizioni, no, che negli Stati Uniti sono tante, ed è anche una delle caratteristiche, insomma, di questi stati, di questa nazione. AlexBellini.it è il sito ufficiale dove Alex anche quotidianamente racconta le impressioni di questa lunga corsa. Oggi è il nostro ultimo appuntamento, Alex, perché sabato arriverai a New York e so che per gli ultimi metri ti sei scelto una sorpresa molto particolare. Oh, sì. Sì, me la sono scelta. Me la sono scelta proprio bene stavolta, la sorpresa finale. Dovrebbe raggiungermi a New York mia figlia Sofia il giorno 27, e quindi correremo proprio gli ultimi centinaia di metri assieme. Questo sarà, diciamo, l'epilogo più emozionante di tutta questa gara. Okay. Tua moglie non ha ancora partorito, questo te lo segnalo in diretta perché l'ho sentita poco fa, tutto bene, siamo sempre in attesa anche noi perché ormai è un parto anche nostro. Alex, e appunto leggendo i post che hai pubblicato sul sito, ho visto che hai fatto un incontro notturno molto particolare. Ti riferisci a? A chi non ti ha lasciato dormire per una notte intera. Ah sì, guarda, veramente, cosa ci vogliamo fare? Va così, alle volte si scelgono i motel, quelli più, è così, sulla carta, quelli che ti sembrano i migliori, poi scopri che a fianco a te ci sono una mandria di uomini che vogliono solo far festa, lasciando veramente poche possibilità di dormire a noi, però ci sta, dai, nell'avventura si mette dentro anche questo. Devo dirti che quel giorno lì, il giorno quindi in cui ho fatto la notte insonne, sono andato piuttosto bene. Ah, sì? Perché probabilmente avevo così tanto sonno che non vedevo l'ora di tornare, di arrivare a stendermi sul letto, e quindi sono stato molto molto contento. Ti racconto un piccolo aneddoto a proposito della stanchezza. Ormai qui veramente dovresti vedere le nostre facce la mattina quando partiamo, perché siamo veramente molto stanchi, alle volte ho l'impressione che esistano solamente i corpi dei corridori e le anime, le menti, i cervelli siano ancora a dormire nei letti. L'altro giorno ero così stanco che sono passato su uno stradone molto trafficato, tu figurati, c'è sempre tantissima gente che è curiosa, che ci saluta, che ci chiede, no? E quindi diventa automatico ormai alzare la mano in segno di saluto, e sono passato vicino a un negozio che vendeva porcellane e oggetti di terracotta, e ho salutato delle persone, delle figure che pensavo fossero, che mi guardavano, no? E invece mi sono avvicinato ed erano due statue, una di Giuseppe e l'altra di Maria, ferme, immobili. Io ho salutato delle statue ed è stato veramente ridicolo. Ogni tanto quando ci penso mi do dello scemo, perché come potevo cambiare due statue per delle persone? Però insomma, dai, questo è. Credo che con 4700 km nelle gambe, cioè, è un segno di stanchezza, Alex, non preoccuparti, è solo quello. Non... Ah, ok. tornerò normale. Dice. Ma il clima qual è? Quello del ok, ci siamo? Quindi c'è ironia, c'è divertimento, c'è un po' quel sentimento di ok, ce l'abbiamo fatta, poi si torna a casa, o la concentrazione è ancora alta? Guarda, tutti quanti vorrebbero far credere agli altri di essere ancora completamente centrati su noi stessi, sulla nostra, sulle tappe, sui chilometri che abbiamo da fare. In realtà basta guardarsi bene negli occhi per capire che tutti quanti si rendono conto che siamo ormai arrivati agli ultimi giorni, no? Sì. E lo noti perché abbiamo tutti quanti più voglia di fare le battute, di ridere, magari ci si ferma sulla strada a bere un caffè piuttosto che a prendersi un gelato, insomma è un po' come il Giro d'Italia, che arrivano quando si arriva nei paesi, non so, sai che i ciclisti hanno l'abitudine, quando un ciclista arriva a raggiungere il proprio paese, di fermarsi, di fare le chiacchiere con i parenti. Ecco, noi siamo un po' a quel livello lì. E quindi insomma, esatto, anche lì reazioni diverse. Alex, un'ultima domanda che non so se te la sei già posta in queste tue corse o in queste tue nottate di riposo. Questi 70 giorni, chiamiamoli, sono 64, ma ormai il 70 è lì dietro l'angolo, ti hanno cambiato in qualcosa e hai già capito anche in che cosa? Guarda, ci sono, io ovviamente ho molto tempo per pensare, penso molto in queste lunghe giornate. Ho pensato soprattutto a due cose, una magari che può essere molto scontata, che ed è la seguente, che tra due persone, tra una coppia, tra marito e moglie, ciò che le unisce queste due persone non è la vicinanza, ma è piuttosto l'amore che le unisce, no? Quindi, ripeto, può essere scontato, ma per me e mia moglie, che viviamo una vita spesso distante, è all'ordine del giorno questo, perché passiamo spesso più tempo lontani che vicini, ma ci rendiamo conto che siamo sempre più legati uno con l'altro. Poi c'è un altro aspetto che questo credo che possa, mi piacerebbe condividere con tutti. Non so se vi ricordate sicuramente il film Forrest Gump. Certo. No? Lui inizia a correre, non lo sa bene perché inizia a correre, lui è un po' stupidino in un certo senso, perché c'è sempre una ragione valida, no? O per raggiungere un piacere o per scappare da un dolore. Nel suo caso lui scappava dal dolore di perdere la sua amata Jenny, che era andato che si era sposata con quell'altro suo amico. Insomma, a un certo punto dietro Forrest inizia a formarsi un gruppo di persone che iniziano a seguirlo, sempre più numerosi. Quando lui inizia corre avanti e indietro per gli Stati Uniti, a un certo punto si ferma e dice la famosa frase: un po' stanchino, me ne torno a casa. E lui in quello torna a casa e torna a tagliare l'erba col decespugliatore, no? Certo. Vi ricordate che cosa fanno le persone dietro Forrest Gump quando perdono, diciamo, il leader? Che te lo ricordi, no? Quel momento. Che per me è di un dramma pazzesco, perché sono queste persone che dicono: adesso noi che cosa facciamo? Esatto. Ecco, ho pensato molto a questo, no? Come spesso le persone non vivono, scusami se mi emoziono, però devi anche capire quello che sto vivendo io, no? Certo. Ed Alex, è questo, che spesso le persone vivono inseguendo dei sogni, delle cose che non sono proprie, sono i sogni di altri. Quindi quando viene a mancare il sentimento della persona ci si sente un po' persa. E il mio invito invece è quello che dovrebbero fare tutte le persone: trovare ciò che rappresenta il nostro sogno, di inseguire il nostro sogno, non cercare riferimenti d'altra parte. Questo. Grazie davvero Alex, grazie per le tue parole, grazie soprattutto per averci permesso di correre con te in tutte queste settimane. Seguiremo comunque anche gli ultimi giorni dell'impresa e ricordiamo che Alex, noi ci diamo appuntamento l'11 settembre al Festival Letteratura Mantova, perché racconteremo dal vivo questa avventura e anche le avventure passate, quindi avremo modo di fare una bella chiacchierata pubblica anche lì. Alex, ti aspetto. Sono molto contento Federico, lasciami fare un grandissimo ringraziamento a te che mi hai permesso di condividere con tutti i tuoi ascoltatori questa bellissima avventura. Spero sia passata per radio la gioia, la voglia di camminare, di sognare, di esprimersi alla propria maniera. Vi ringrazio perché mi date, anche questa volta mi avete dato una grandissima mano, perché sono stati molti le persone che mi hanno incoraggiato. E poi cos'altro? Niente, ci rivedremo in altre vesti. Io vi saluto New York e buona fine estate a tutti. E poi ti manderò tutta la playlist, perché abbiamo attraversato anche gli Stati Uniti musicalmente ed è stata una bella avventura anche quella. Ciao Alex, grazie davvero e buone ultime tappe. Un abbraccio forte, ciao.